Buongiorno. Potevate fare un applauso più bello, però. Allora, questa mattina è un miracolo che la granita si sia formata. Gesù trasformava l'acqua in vino, noi l'acqua in granita. Quindi arriveremo anche noi al vino, non vi preoccupate, quando finirà quello per la Santa Cena. Io voglio ringraziare il nostro pastore. Sono così grato per avere un pastore come il nostro. E ci ho pensato questo ultimo mese, quando ero seduto lì come voi e lui ha predicato tutte quelle parole che Gesù aveva messo nel suo cuore per noi, e io mi sono sentito così tranquillo, così sereno, che una persona che stava andando davanti a me stava pagando il prezzo per me e si poneva le giuste domande e non decideva di fare quello che facciamo perché lo facciamo e perché dobbiamo farlo, ma che si pone le giuste domande, che va davanti a Gesù, che sa che questo è quello che conta, la parola di Dio. Ed è così rassicurante per me sapere che sto seguendo un pastore che non dà nulla per scontato, ma che si pone le domande davanti a Gesù, che va nella parola di Dio, che trova le risposte per noi e che ci aiuta e che ci guida in questo. Non è da dare per scontato questo, non è da dare per scontato. E sono così grato oggi, e voglio citarli ognuno, per ogni volontario, il pastore non sapeva che avrei fatto questo, per ogni volontario che serve, ogni settimana, ogni domenica ci sono persone che permettono che questo che stiamo vivendo noi adesso sia possibile. E io le voglio citare tutte, io voglio ringraziare Anastasia, Lucia, Anna, Antonella, Sabrina, Mariella, Maria, Elisa, Aurora, Madeleine, Flavia, Beatrice, Angela, Vito, Katia, Anastasia l'ho già detto, Dommi, Lidia, Rosanna, Antonio, Nico, Antonio, Nicola, Tiziano, Francesco, Giancarlo, Stefania, Ilaria, Marica, Laura, Gianvito, Antonio di nuovo, Pino, Beauty, Titti, Cinzia, Gabriele, Francesco, Romina, Angela, Pasquina, Antonella, Flavia, Sabrina, Antonio e Anna, Lucia, Mariella, Giovanna, Valentina, Giuliana, Riccardo, Vito, Nunzia, Anna, Maria, ancora, quante Marie stanno? Vito e Maria, Carmela, Aurora, Vito, Bianca, Tonia, Narita, Roberto, Maria, Mary, Rino e Anna, Ilaria, Daniela, Anna, ancora un'Anna, Nico, Tiziano, Enza, Rina, Giovanni, Antonella di nuovo, chi altro c'è? Saverio, Stefania, Giuseppe, Teresa, Giovanni, Simona, Karen, Annunziata, Elisa, Pino, Anna, Gaetano, Vito, Riccardo. Io credo che possiamo alzarci in piedi. Possiamo alzarci in piedi? No. Voglio sentire un po' di fede in questo momento. Dobbiamo alzarci in piedi e fare un grandissimo applauso per ognuna di queste persone, per onorarle. Per onorarle. Senza di loro io potrei stare a casa. Il titolo del messaggio di questa mattina, e potete accomodarvi, è Rivoluzione di fede. Noi ci troviamo oggi nel bel mezzo di una rivoluzione di fede che è iniziata 2015 anni fa. E questa mattina, insieme con voi, io voglio fare un po' un passo indietro e immergermi alle origini di quando questa rivoluzione è iniziata, per capire come è iniziata, cosa è successo quando è iniziata, cosa ha permesso che potesse iniziare. Ci piace? Siete affamati di rivoluzione? Ripeto, siete affamati di rivoluzione? Vi sentite rivoluzionari? Allora, dì alla persona accanto a te, tu sei un rivoluzionario di fede. Dillo alla persona dall'altra parte. Nel Vangelo di Marco scopriamo che Gesù, Dio Figlio, si fa carne Nasce e cresce e si battezza. All'età di 30 anni lui decide di battezzarsi e inizia una rivoluzione di fede. Lui a 30 anni si battezza e inizia qualcosa di straordinario. Cosa fa? Sceglie un team. Dice: ok, non voglio essere da solo in questo, ho bisogno di accerchiarmi di persone. E inizia a scacciare demoni. Guarisce pure le suocere. Inizia subito guarendo la suocera di Pietro. Per tutte le suocere in mezzo a noi c'è speranza anche per voi. Guarisce lebbrosi, guarisce paralitici. Va sul monte e inizia a predicare a migliaia di persone. Io già me lo vedo, miglia tutta Modugno, sotto il monte, lui che predica. Poi continua, calma la tempesta. C'è una tempesta, i discepoli stanno morendo, lui arriva, calma la tempesta, guarisce ancora, ci troviamo al capitolo 5. Moltiplica il cibo per la prima volta. Cammina sul mare. Continua a guarire, guarisce persone di altre religioni. C'era questa donna pagana di un altro popolo che non credeva nel Dio degli ebrei, nel Dio di Israele, e lui dice: pure tu puoi essere salvata, pure la tua famiglia può essere salvata. Moltiplica il cibo una seconda volta, non gli bastava uno, due, ricontinua a guarire. E secondo me a questo punto della vita di Gesù, i discepoli che lo aveva chiamato a sé, quella squadra, quel team che si era formato, erano super gasati. Cioè erano proprio che stavano lì, che proprio, che dobbiamo fare? Gesù, non ci sono i pani, ok, preghiamo. 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, oh, funziona. Erano super gasati, erano pronti a conquistare il mondo. Secondo me si sentivano invincibili perché avevano visto calmare le tempeste, avevano visto Gesù camminare sull'acqua, Pietro aveva camminato sull'acqua. E qualsiasi malattia tu avessi, tu eri guarito. Qualsiasi cosa tu avevi, Gesù la trasformava. E sul punto, secondo me, più alto, dove loro non vedevano l'ora di arrivare a dove non si era ancora arrivato, Gesù gli fa un bel discorso. Un bellissimo discorso, e lo leggiamo al capitolo 8 del Vangelo di Marco, dal versetto 31. E Gesù li ferma e dice questo: poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il Figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso, e dopo 3 giorni risuscitasse. Non è qualcosa che tu dici nel clou, no? Del risveglio. C'era una rivoluzione, le persone credevano, le persone si affollavano, le persone volevano Gesù. I discepoli, no, si erano un po' infighettati, secondo me, no? Perché loro stavano sempre con Gesù. Quindi mentre tutti volevano sapere Gesù dove stava, loro lo sapevano. E Gesù cosa fa? Ragazzi, fermiamoci un attimo. Vi devo spiegare qualcosa. Perché forse questa rivoluzione di fede che voi avete visto fino ad ora non è del tutto la rivoluzione di fede che io voglio portare. Non è questa la rivoluzione di fede, che ci apriamo una paninoteca e da fare i pescatori vendiamo i panini perché li sappiamo moltiplicare. Non è questa la rivoluzione di fede, che ci mettiamo l'abito bello, andiamo sopra al monte, facciamo una bella predica, migliaia di persone vengono e noi siamo bravi. Non è questa la rivoluzione di fede. Non è questo quello che io sono venuto a fare, non è questo quello che io vi ho chiamato a fare. Io devo soffrire molte cose. Io sarò respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e sarò ucciso. E dopo 3 giorni io risusciterò. La rivoluzione di fede che io sono venuto a fare, stava dicendo Gesù, era sacrificare la mia vita. La rivoluzione di fede a cui io vi ho chiamato e sacrificare. Io sto venendo qui a sacrificare la mia vita, sto andando su quella croce, sto prendendo i vostri peccati, sto salvando la vostra anima e vi sto liberando. È questa la rivoluzione di fede. È questo quello che io sono venuto a fare. Non è solo quello che voi avete visto. C'è molto di più, c'è molto di più. E al verso 32, ovviamente, Pietro, no? Come Gesù inizia a parlare di queste cose, subito diceva queste cose apertamente, Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. E io già vedo, no? Pietro, Gesù, Vieni, sediamoci. Allora, Gesù, devi stare tranquillo, ok? Io sono più grande di te. Facevo il pescatore, ho vissuto la mia vita, sono sposato, le so. Devi stare tranquillo, ok? Tu non ti devi preoccupare. Ci siamo noi che ti proteggiamo. Tu non puoi soffrire. Tu non puoi soffrire. Come? Io ho riconosciuto che tu sei il Cristo, tu sei il figlio di Dio, tu devi venire, io te l'ho detto che sei il Cristo, tu hai detto di sì che sei il Cristo e ora devi soffrire. Hai camminato sull'acqua, hai moltiplicato i pani, guarisci chiunque e quattro anzianotti degli scribi e dei farisei ti devono fare del male. No, ci siamo noi. Ci siamo noi che ti dobbiamo difendere, ci siamo noi che ti proteggiamo, siamo noi la tua squadra. E al verso 33 Gesù dà una risposta che è un punto di svolta. È un punto di svolta per la chiamata dei discepoli, è un punto di svolta per la rivoluzione di fede che lui aveva in mente ed è un punto di svolta per me e per te questa mattina. E al verso 33 Gesù risponde e dice così: ma Gesù si voltò e guardando i suoi discepoli rimproverò Pietro dicendo: vattene via da me, Satana. Forte, molto forte. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Qual è il senso che guida la tua vita? Questa mattina. È il senso delle cose di Dio o è il senso delle cose degli uomini? Questa è la domanda che Gesù stava facendo ai discepoli. Che cosa è logico per te? Per Pietro era logico. Se io e te fossimo stati davanti a Gesù in quel momento che lui è uscito, se ne è così, quando è pi, se ne esce, io devo morire. Devi morire. E che sei venuti a fare dietro a te che devi morire? Stavamo a pescare. È giusto? Noi avremmo avuto la stessa reazione, perché è logico. È logico. Gesù, tu stai vincendo, stai rivoluzionando, stai trasformando la vita delle persone. Sei un vincitore. Come puoi morire? Cioè, ma ti rendi conto di quello che stai dicendo o no? Cioè, sei cosciente di questo? Cioè, non fa una piega il discorso che Pietro gli fa. Perché se tu stai vincendo, non puoi perdere. E se tu perdi, non puoi vincere. È logico. Sbagliato. È sbagliato. E Gesù dà un insegnamento molto forte, perché una rivoluzione di fede si porta avanti attraverso il senso delle cose di Dio. E Gesù sapeva che non si era fatto uomo per guarire tre persone che aveva incontrato nella sua vita, o le migliaia di persone che ha incontrato fino a quando poi è morto. Lui sapeva che era venuto perché lui doveva salvare me e te e tutti dal peccato. Lui sapeva che era venuto per sacrificare la sua vita. Lui sapeva che c'era di più. Lui aveva il senso delle cose di Dio e non il senso di quello che noi possiamo vedere, di quello che i discepoli avevano visto e di quello che i discepoli avevano sperimentato. Cosa ricerchi? Cosa ti influenza? Chi e cosa ti dice quello che devi fare e come lo devi fare? Il senso delle cose di Dio? Cioè quello che leggi, quello che confessi da quello che leggi, oppure la tua esperienza? Il tuo sapere come devono andare le cose, il tuo aver visto come vanno le cose, il tuo sapere. Questa è una bella domanda che Gesù fa ai discepoli. Perché? Perché Gesù sa quello che loro avrebbero potuto fare e Gesù sa quello che tu puoi fare e Gesù sa che quello che tu stai vivendo non ha niente a che vedere con quello che tu puoi fare. E al verso 34 dà una chiamata, ma dà una chiamata così forte, così radicale, così rivoluzionaria che nessuna ideologia te la potrà mai dare. Nessuna filosofia ce la potrà mai dare. Nessun santone di turno potrà mai girarsi, svegliarsi un giorno e avere le parole che Gesù sta per dire in questo verso che stiamo per leggere. E al verso 34 lui dice così: chiamata a sé la folla, li chiama tutti. Perché aveva capito che non avevano capito. Aveva capito che non avevano capito. E non era preoccupato del fatto che non avessero capito, non era deluso del fatto che non avessero capito, non era rimasto spiazzato dal fatto che non avessero capito. Lui sapeva dove voleva andare, sapeva quello che voleva fare e glielo dice. E Gesù non è mai spiazzato se tu non hai capito qualcosa. Lui ti vuole comunque portare dove lui ha scelto. Chiamatasi la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Se uno vuole venire dietro a me, li ha richiamati tutti, chiunque, tu cosa vuoi fare? Sei discepolo? No, ma cosa vuoi fare? Vuoi venire dietro a me? Rinuncia a te stesso, rinuncia a te stesso, prendi la tua croce e seguimi. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amore mio e del Vangelo la salverà. Questa è una chiamata così forte che io non sono degno di citarvela oggi, in questo momento. Io e te non siamo degni di rispondere a questa chiamata. Io non sarò mai degno di dire sì, io voglio rinunciare a tutto, perché non riuscirò mai fino in fondo a rinunciare a tutto. Ci sarà sempre qualcosa domani che mi aspetta che io dovrò rinunciare. Ma Gesù, colui che ti chiama, è degno. Lui è degno di chiamarti, lui è degno di dirtelo, lui è degno di chiedertelo e solo lui può. Solo lui te lo può chiedere. Solo lui ce lo potrà mai chiedere nella nostra vita. Puoi uscire da questo posto, puoi andare dove vuoi, ma solo lui te lo potrà chiedere. Perché solo lui è degno di poterlo fare. E l'Apostolo Paolo, nella lettera che scrive ai Romani, nella lettera che scrive ai Filippesi al capitolo 2, lui dà un consiglio e dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale non ha ritenuto il suo essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma ha svuotato se stesso e ha preso la forma di servo. È divenuto simile agli uomini, è stato obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Gesù aveva rinunciato a tutto. Per venire in mezzo a noi aveva rinunciato. Lui se lo poteva permettere di chiederlo a loro e lui se lo può permettere di chiederlo a noi oggi, perché lui lo ha fatto e lui non chiede mai niente di quello che lui non ha fatto. E lui stava per prendere la sua croce e sulla sua croce stava per prendere tutte le nostre croci. Perché io e te dobbiamo morire. Lo so che non è una bellissima notizia da dare il 12 luglio in una giornata estiva. Io e te dobbiamo morire. Io e te, se non viviamo e prendiamo il suo sacrificio, moriremo. Perché se noi vogliamo salvare la nostra vita, noi la perderemo. Io lo so che non è bellissimo da raccontare, ma è la verità. E lui sapeva che avrebbe preso la nostra croce. Lui sapeva che avrebbe preso la tua croce. Ed era questa la rivoluzione di fede. Non... sei bravo Gesù! Era prendere la tua croce. Era sacrificare se stesso. Era perdere la sua vita perché io e te potessimo vincere. Gesù ha perso la sua vita e perdendo ha vinto. Perdendo ha vinto. Così tu. Così tu. Tu puoi fare uguale. Dì alla persona accanto a te, lo vuoi capire che devi perdere? No, no, lo dovete dire bene. Di, lo vuoi, devi prenderla così, devi scuoterla. Lo vuoi capire che devi perdere? Poi riprendila, No, non la state prendendo, riprendila. E di, perché solo così potrai vincere. Devi perdere, perché solo così potrai vincere. Punto 1, cosa perdere? Perdi i tuoi pensieri. A cosa pensi? In cosa la tua mente è costantemente impegnata? Cosa frulla? Come pensi quello che pensi? Quali sono i tuoi pensieri durante la giornata? Che pensieri hai durante la giornata? Quando le cose non vanno come tu avevi pensato, cosa pensi? Quando tu ti sei fatto un progettino con i tuoi pensieri, no? E poi non va come tu hai pensato. Che cosa pensi? Quando le cose vanno male intorno a te, che pensi? Quando lo stipendio non arriva, che pensi? Quando Gesù è stato sepolto e la pietra è stata messa davanti al sepolcro, tutti hanno pensato che la rivoluzione fosse finita e che la fede si era fermata. Tutti. Sono stati 3 anni fantastici, Gesù ha spaccato tutto, ma come ogni cosa bella, prima o poi, Gesù è morto. L'abbiamo seppellito, abbiamo messo la pietra, non possiamo fare più niente. Perdi i tuoi pensieri. Perdi i tuoi pensieri e pensa a fede. Pensa a fede, perché Gesù è vivo. Gesù è vivo e Lui ha vinto. Perdi i tuoi pensieri, punto numero 2. Perdi la tua vista. Perdi la tua vista. Cosa vedi? Come vedi quello che stai vedendo? È tutto nero? Tutto succede a te? Non va mai niente bene. Mai una cosa buona. Come vedi? Quando i problemi arrivano, come li vedi? Come li affronti? Li affronti? Li affronti con Gesù o li affronti da solo? Come funziona per te? Quando Gesù è stato sepolto e la pietra è stata messa davanti al sepolcro, Pietro ha visto solo reti da pesca davanti a sé. È finito tutto. L'immagine che Pietro ha avuto erano reti da pesca. E che cosa ha fatto? In Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 21, leggiamo che lui ha preso Tommaso, detto Didimo, ha preso Natanaele di Cana di Galilea, ha preso i figli di Zebedeo e altri 2 suoi discepoli ed è ritornato a pescare. Cosa stai guardando? Dove guardi e dove tu andrai? Dove guardi e dove andrai tu e le persone intorno a te? Dove le stai portando? Perdi la tua vista e guarda fede, perché Gesù è vivo e Lui ha vinto. Perdi i tuoi pensieri, perdi la tua vista. Punto numero 3. Perdi le tue parole. Cosa dici? In genere, tu cosa dici? Come dici quello che dici? Sembra uno scioglilingua. Dici che dici boh. Come dici quello che dici? Quali sono le tue parole davanti alle cose belle che vivi? Sono parole di gratitudine? come sono le tue parole davanti alle cose brutte che vivi? Che cosa esce dalla tua bocca quando sei in difficoltà? O quando vedi le cose che non ti piacciono? Come parli della tua famiglia? I miei genitori sono vecchi, sono pesanti e non mi capiscono. Cosa dici della tua famiglia? Come parli dei tuoi figli? Cosa dici di tuo marito? Cosa dici di tua moglie? Cosa dici di Gesù? Dici qualcosa di Gesù? Quando Gesù è stato sepolto e la pietra è stata messa davanti al sepolcro, nessuno dei suoi discepoli ha ammesso di averlo conosciuto. Nessuno. Sono tutti scappati. Non si ritrovava più nessuno. Da essere migliaia di persone vicino a lui, lui muore, sono tutti scappati. Nessuno ha detto: io conoscevo quell'uomo. Lo hanno tutti rinnegato. Questa mattina scegli di perdere le tue parole e parla fede, perché Gesù è vivo e lui ha vinto. E perdi tutte quelle parole che non hai mai detto di Gesù. È strano perdere le parole che non abbiamo mai detto di Gesù. È testimonia di lui. Perché lui è potente da salvare. Anche una donna di un'altra religione ha salvato a lei e la figlia. Lui è potente da salvare. E al verso 36 riprende Gesù e dice: e che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Che giova? A che ci serve che tutte le persone intorno a noi hanno guadagnato forse il mondo e noi non ce lo abbiamo, perché noi non siamo come loro e vorremmo essere come loro, e la nostra vita, i nostri pensieri, è quello che vediamo e quello che diciamo, non è mai abbastanza, non va tutto bene, e c'hai il foglio in mano e poi il foglio cade, oh mio Dio, il foglio è caduto, perché è caduto? Se ce l'avevo qua non poteva cadere, perché ce l'avevo qua, lo dovevo mettere da qua, perché se ce l'avevo da qua non cadeva, però poi anche quando ce l'ho da qua cade, però perché è caduto? Forse è caduto perché e quindi lo devo mettere da qua, no, forse come devo fare? Lo devo mettere da qui? No, lo devo mettere in tasca, ma se poi lo in tasca, me lo dimentico quando lavi i pantaloni. Alzati, raccoglilo e vai avanti. Gesù è vivo. A che ti serve guadagnare tutto il mondo se hai perso la tua anima? Se la tua anima è condannata, a che serve che c'hai tutto il resto? Tanto lo devi lasciare, tanto non te lo puoi portare insieme. E continua al verso 37: infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Niente, non c'è niente di buono che io e te possiamo fare. Niente. Non c'è niente di buono che le persone intorno a te possono sforzarsi di fare. Gesù è morto. Gesù ha perso la sua vita, Gesù è risorto, Gesù ha vinto, Gesù è vivo. È Lui che ha dato la sua vita per la tua anima. È Lui che ha pagato il prezzo per la nostra anima. È questa la rivoluzione di fede di cui Gesù stava parlando, che Lui era venuto a fare, che Lui voleva che i discepoli prendessero. E continua al verso 38 e dice: perché se uno si sarà vergognato di me, delle mie parole, in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre con i suoi santi angeli. Ed è fantastico come in ogni Vangelo è registrata la testimonianza di come Gesù, una volta che è risorto, è andato a cercare tutti i suoi che l'avevano rinnegato. Una volta che lui è risorto è andato a cercare tutti i suoi che l'avevano rinnegato. È andato a Tommaso, è andato ai discepoli che erano riuniti in casa, è andato a quelli sulla via per Emmaus, è andato a Pietro che stava pescando. E Gesù un giorno tornerà. Tornerà con il Padre, con i santi angeli, tornerà dal cielo e ciò che è stato fatto sarà fatto. Ma fino ad allora e da 2015 anni lui esce per venire a cercare me e per venire a cercare te. Perché anche se noi l'abbiamo rinnegato, c'è una possibilità per noi. Anche se le persone intorno a te l'hanno rinnegato, c'è una possibilità per loro. E quella possibilità è Cristo Gesù che è vivo e la vuole fare attraverso di te. E lui è ritornato da Pietro, che stava pescando e non aveva preso niente. Era ritornato il Pietro di una volta, no? Sfigato, che pesca e non prende mai niente. E Gesù dice: Pietro, devi buttare dall'altra parte. E loro riconoscono che era Gesù. E quando Pietro va da lui, Gesù gli dice: Pietro, tu mi ami. E glielo chiede 3 volte. A me tante volte il Signore è venuto a dirmi: Antonio, ma tu mi ami? E questa mattina lui sta venendo da te e ti sta dicendo: ma tu mi ami? Io lo so che pensi le cose che non devi pensare, ma tu mi ami. Io lo so che vedi sempre tutto sbagliato, ma tu mi ami. Io lo so che dici sempre che non può cadere un foglio per terra, che sei... ma tu mi ami. Io vorrei invitare il gruppo Lode e vorrei che noi potessimo confessare le parole e il bridge di questo canto. Perché una pietra era stata posta davanti al sepolcro dove Gesù era stato sepolto e tutti pensavano che Gesù era morto. E forse con i tuoi pensieri questa mattina tu pensi come se lui fosse morto. E forse in quello che tu vedi come se lui fosse morto. E in quello che tu parli, forse tu parli come se lui fosse morto. Ma lui è vivo. Quella pietra è stata tolta. La tomba è vuota e la morte non c'è più. Ed è per questo che tu sei vivo, perché tu vivi in Cristo Gesù. E tu sai quali sono i pensieri su cui tu devi confessare questo. E possiamo alzarci in piedi, scusatemi, mi sono dimenticato di dirvelo. Abbiamo tempo abbondante per fare questo. Tu sai quali sono i tuoi pensieri, dove forse non vivi un Gesù che è vivo. Puoi perderli stamattina, confessando queste parole. Tu sai quali sono le cose che tu vedi, come se lui fosse morto, come se lui non potesse fare più nulla. E tu le puoi perdere, perché lui è vivo e lui è potente. E tu sai le cose che dici e che non ti piacciono, ma che le dici perché non riesci a non dirle. Tu le puoi perdere. Tu le puoi perdere questa mattina per parlare fede. Confessa le parole di questo canto sulla tua vita e vivile per te.